Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati a Sinistra, un mondo dentro il balloon che oggi ha tre spunti da offrire nella trasmissione. Prima di tutto andiamo a far visita al Museo PAF di Pordenone, dove è in corso fino al 26 febbraio questa mostra The Spirit of Will Eisner. Will Eisner, un grande pioniere dell'arte del fumetto. Più tardi andiamo a parlare di un grande della musica jazz, Charlie Mingus, perché un'ultima edizione del Coconino Press presenta questo ritratto del celebre bassista, firma con Flavio Mazzarutto, con le illustrazioni di Squaz, e noi appunto sentiremo lo stesso Mazzarutto. E infine, dai bianco al nero ai colori, fumetto che muta la sua storia, quindi Metamorfosi, con l'autore Giacomo Cason Bevilacqua, che racconta ai nostri microfoni la storia della nascita e anche rinascita di questo fumetto. As I went out walking one fine summer morning. Quindi iniziamo la serie delle interviste con quella di Morena Moretti a Giulio De Vita del PAF Museo di Pordenone, proprio su questa mostra. As I went out walking. Giulio De Vita, al PAF di Pordenone è in corso una mostra direi straordinaria su Will Eisner, ma come siete riusciti a organizzarla e a procurarvi tutte queste opere che sono 180 addirittura? È un lungo lavoro che è il frutto di anni e anni di contatti, di relazioni, di fiducia, di stima con professionale. Per esempio io sono un fumettista che lavora da ormai 20 anni a livello internazionale e in questi anni appunto ho tessuto tutta questa serie di relazioni e adesso che c'è il PAF chiaramente riusciamo a farne frutto. Ci può parlare dell'artista proprio di Will Eisner per chi non lo conoscesse, perché probabilmente ci sono anche giovani che non sanno chi sia? Will Eisner è uno dei 4-5 fumettisti della storia del fumetto fondamentali e imprescindibili. È colui che nei primi anni del Novecento è riuscito ad intuire che il fumetto non era solo una letteratura di serie B, un linguaggio semplice e banale, ma che aveva un potenziale molto forte. Newyorkese di cultura ebraica, di famiglia ebraica, inizia a lavorare per le strisce dei quotidiani e crea nel 1917 un grande personaggio di genere thriller che si chiamava The Spirit. Ingabbiato in questa realtà editoriale, quella del quotidiano, e inizia subito a cercare di innovare con metodi innovativi, con metodi iconoclastici, con stili e ricerche grafiche veramente spettacolari e ipermoderne. Dopo 20 anni di attività in questa situazione editoriale, che era già gratificata ed era di grande successo, lui però decide di liberarsi da queste costrizioni e inizia a fare un'esperienza alternativa utilizzando il fumetto in maniera didattica, divulgativa. Quindi per esempio inizia a collaborare con l'esercito degli Stati Uniti per creare dei manuali visivi disegnati per permettere ai militari di imparare l'uso delle loro strumentazioni. Ed è solo negli anni 70 che il movimento underground dell'epoca, con i movimenti giovanili successivi al 68, lo riscopre come mito del fumetto, come grandissimo innovatore, e gli permette proprio di attuare quello che aveva sempre pensato, cioè il graphic novel. Il graphic novel che è un formato di fumetto totalmente indipendente dai cliché editoriali, quindi novel vuol dire romanzo, e quindi libero dalle paginazioni, dai formati imposti dalla serialità editoriale, e invece il formato e la paginazione, la lunghezza delle storie è proprio semplicemente decisa dall'autore per esprimere al meglio i contenuti che lui vuole. Quindi è giusto considerarlo il padre, l'inventore della graphic novel? Sì, dell'uso e della percezione moderna, sì. La parola graphic novel era già stata inventata da altri, quindi non è precisamente l'inventore, ma è colui che ha fatto diventare questo termine un formato riconosciuto e oggi è forse quello che più dà valore al linguaggio del fumetto. Nella mostra che si può vedere nei vostri locali, come seguono le tavole, i lavori, come si svolge la mostra? Allora, il PAF è una struttura molto innovativa, ma che cerca di fare delle mostre multilivello. Siamo nell'ottica dello Smart Museum, quindi partiamo dal concetto che un'esposizione è un'esperienza per il visitatore. Ci sono dei ragionamenti proprio di percezione degli spazi e come vengono fruiti queste esperienze, quindi è multilivello. Ci sono le tavole esposte, quindi per gli appassionati che possono apprezzare il gesto artistico dell'autore. Ci sono degli allestimenti scenografici che permette a chi visita la mostra di emozionarsi, di uscire da questa esperienza con delle emozioni memorabili da portarsi con sé e la volontà di reiterare questa esperienza. Ci sono dei testi, c'è la multimedialità, la possibilità di fruire anche di contenuti extra espositivi e il susseguirsi delle tavole che sono disposte su quattro grandi sale all'interno di questa bellissima galleria di cui disponiamo. Partono appunto dai primi anni, cui, come citavo prima, ci sono le tavole, le storie di The Spirit, fino ad arrivare appunto al clou della mostra, anche la parte finale in cui ci sono delle installazioni anche di impatto visivo sulle tavole delle varie graphic novel. Infine c'è anche una sezione dove ci sono riportate le pubblicazioni, perché il fumetto non nasce per essere esposto, il fumetto nasce per essere pubblicato, quindi le opere d'arte degli originali sono create per essere raffrontate alle pubblicazioni originali, quindi ci sono anche una bella sezione con tutte le pubblicazioni originali provenienti dalla Francia e dagli Stati Uniti. Già finito, oh, oh, oh, oh. L'amore viene e va. Un po' di dispiacere, oh, oh, oh. E dopo passerà. Due occhi più blu del blu, domani ritroverò. Dopo questo viaggio a Pordenone al Museo PAF, invece andiamo a parlare di questo fumetto che invece parla di jazz, con questa biografia di Mingus, con due autori, Flavio Massarutto nei testi e Squaz alle illustrazioni. Io e Willy abbiamo proprio ascoltato Massarutto che ci ha spiegato un po' il senso di questa produzione. Mingus edizioni Cocconino Press, coautore Flavio Massarutto. Benvenuto Flavio. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, metter Mingus anche su tavola, ne è stato così parlato e scritto tantissimo, com'è disegnarlo invece Flavio? Beh, insomma, io l'ho scritto intanto, Pasquale certo. Todisco l'ha disegnato, okay. Ma è stata una bella avventura, intanto per capire come raccontare un personaggio così multiforme, anche contraddittorio, vulcanico, comunque ci siamo divertiti tantissimo, lo posso dire, e spero che si divertano anche i lettori a leggere. Un fumetto su Mingus, quanto avete calibrato il discorso sullo sviluppo musicale di Mingus e quanto sul personaggio che di poco era controverso come persona? Sì, ma diciamo che questo racconta più il Mingus uomo, e naturalmente raccontando il Mingus uomo raccontiamo anche il Mingus musicista, però insomma lo sguardo è più sull'uomo, sulla sua vicenda, sui suoi problemi che aveva e anche sulle sue reazioni, no? Come lui ha reagito alla condizione di essere un meticcio in una società fortemente segregata come era quello degli Stati Uniti negli anni 40, quando lui insomma ha cominciato a muovere i primi passi e poi lungo tutta la sua carriera, che per nostra fortuna è stata molto ricca, ma è stata anche una carriera molto breve perché lui se n'è andato purtroppo solo a 56 anni, per cui insomma un brano famosissimo era Freedom, che diceva libertà per mio fratello, per mio, ma sì. Non per me, perché lui non solo era nero, ma era figlio di indiana e di neri, quindi era discriminato, sì, sì. Anche dai neri, diciamo. sangue cinese. Tutto aveva di tutto, bastardo, come esatto, l'autobiografia appunto è specie di un bastardo lui, questo. Noi infatti la citiamo abbondantemente la sua autobiografia, ovviamente abbiamo saccheggiato i suoi racconti. Autobiografia totalmente visionaria e inattendibile peraltro, però verosimile insomma. Ok, tra finzione e realtà, come si dice adesso. This is New Leaf from Moscow. This new leaf from the south. But this mule's had some learning. Mostly mouth to mouth. This mule could be called stubborn and lazy. But in a clever sort of way, this mule could be working, waiting, and learning and planning for a sacred kind of day. A day when burning sticks and crosses is not mere child's play, but a madman in his most incandescent bloom. Whose lovely soul is imperfection in its most lustrous groom. So stand fast, young old mule, soothed in contemplation that burning hole and aching thigh. Your stubbornness is of the living, and cruel anxiety is about to die. Freedom for your daddy. Freedom. Freedom for me. il nostro è un libro molto visionario, ecco, diciamo, non è un racconto didascalico. Abbiamo preso questa vita e abbiamo cercato di farla diventare appunto delle visioni, per cui è tutto molto verificato, tutto molto verosimile, però diciamo ci siamo concessi molte libertà. Ecco. Nel linguaggio, il linguaggio jazzistico è un linguaggio serrato, nel duello bebop, il fumetto è altrettanto stringato, quanto si lega il jazz col fumetto, a tuo parere? Oh beh, guarda, secondo me ci sta benissimo. Io ci ho scritto due saggi, per cui guarda, no, ma al di là del rapporto di carattere storico, no, che sono documentati, io li ho documentati, c'è anche un rapporto anche proprio nel linguaggio, per quanto siano linguaggi diversi, sono linguaggi che si guardano. Poi devo dire in particolare Pasquale Squaz ha un modo di costruire la tavola, la gabbia, le vignette, le scansioni molto jazzistico, e per cui insomma ci si renderà conto vedendo il volume. C'è un ritmo molto molto importante, come il ritmo è molto importante nel jazz, il ritmo di lettura che conferisce Pasquale alle sue tavole è veramente. Poi noi abbiamo fatto proprio, ci sono tre episodi che sono episodi senza parole, dove proprio lì si esprime moltissimo insomma questo rapporto ritmico insomma, no, con la musica jazz. Ultimo spunto per la trasmissione, l'intervista a Giacomo Cason, Bevilacqua, su questo fumetto riedito e completato, Metamorphosis, un'intervista a firma di Rachele Coparoni. Fumettista Giacomo Bevilacqua, è uscito il 4 novembre una ristampa, o meglio la versione definitiva del tuo fumetto Metamorphosis. Innanzitutto ti volevo chiedere, Giacomo, perché la scelta di rivedere e ripubblicare appunto questo tuo lavoro, qual era la necessità? Necessità che stava dietro questa scelta? La necessità in realtà è stata duplice. La prima, perché quando mi è venuta in mente per la prima volta questa storia, ovvero nel 2007, mi è venuta in mente a colori. Poi per esigenze editoriali, ovviamente di tempistiche eccetera, l'edizione che è uscita in precedenza, quella da Edicola e anche poi quella da libreria, sono state edizioni in bianco e nero con i retini al massimo. Quindi diciamo vederla adesso stampata in questo modo, ovvero come l'ho sempre immaginato questa storia, che ha comunque degli stacchi diversi a livello, cioè, diciamo c'è tutta una cosa che a colori è meglio, ecco. E invece la seconda cosa è che io scrissi questa storia nel 2010, la realizzai tra il 2010 e il 2012, che era un periodo di forte cambiamento per me. E adesso è un altro periodo molto molto forte di cambiamento nella mia vita personale, lavorativa, eccetera. E quindi era il momento giusto, secondo me questo era il momento giusto per far riuscire questa storia, che mi sono reso conto che con gli anni non è invecchiata per niente, anche perché, ahimè, la vita è fatta dei cambiamenti per tutti, per tutte. Quindi, insomma, diciamo, se c'è una cosa che non cambia nella vita, sono i cambiamenti, purtroppo. E quindi quelli o li accetti oppure ti trascinano avanti faccia l'asfalto, quindi insomma diciamo che il senso era anche un po' quello. Lo dicevi anche tu, insomma, coi colori è tutta un'altra storia, e per questo hai collaborato con Elia Bisogno e con Silvia Landucci. Ti volevo chiedere com'è stato collaborare con più persone appunto a un tuo lavoro, ecco, e aggiungere un qualcosa di nuovo. Ma io in realtà sì, diciamo che questo è stato un lavoro differente, però anche io nel 2020 avevo collaborato insieme a Fabiana Mascolo per la colorazione di Tutto a Pando Piace l'Avventura, che è un libro di 500, una storia di 500 pagine. La cosa che mi ha fatto molto piacere nel collaborare con Elia e con Silvia è che comunque loro sono entrati molto nella mia testa, e sono sia a livello tecnico, e quindi hanno cercato il più possibile di emulare, tra virgolette, una parte della mia cifra stilistica nella colorazione, e in parte a livello emozionale sono riusciti molto a colmare quei vuoti che il bianco e il nero chiaramente, in cui, cioè, nei quali nella versione bianco e nero erano abbastanza evidenti, ecco, il discorso è questo. Ed è stato molto molto bello collaborare con loro, perché è stato un modo di, diciamo, di vedere i propri disegni, i propri lavori prendere vita una seconda volta delle mani esperte, delle mani comunque di bravi artisti. Quindi insomma è stata una cosa molto molto bella. Parlando invece un po' della trama di questo fumetto, è un thriller soprannaturale, un poliziesco moderno, insomma è anche un po' un mix di generi, diciamo così. Ti va di raccontarci un po' qualcosa della trama, senza ovviamente anticipare troppo, perché appunto essendo un thriller poi qua c'è il rischio spoiler. Certo. Allora, intanto è una storia ferma nel tempo, perché è ambientata nel 2011-2012, quindi diciamo che è ferma in quel momento lì. Molti mi dicono, vabbè, ma con la tecnologia di oggi, eccetera, non sarebbe possibile. Invece no, certo, è la stessa identica tecnologia, cioè ci stanno comunque i cellulari, le cose, eccetera. Certo. Parla praticamente di una ragazza che è una scrittrice, all'epoca una blogger, anche adesso i blog sono un po' persi di vista, però insomma sarebbe stata un'influencer fondamentalmente, che soffre di una forma particolare di schizofrenia, ed è convinta, diciamo, che ha questo serial killer che uccide le persone e dispone le vittime come fossero miti dell'antica Grecia, e lei non riesce a capire se questo serial killer è frutto della sua immaginazione oppure esiste davvero e sta facendo quello che sta facendo. La storia, esattamente come suggerisce il titolo, cambia, quindi diciamo mescola 3-4 generi differenti tutti in uno, perché muta man mano che si va avanti con la lettura. Questo apposta, cioè, diciamo, ho fatto apposta questa cosa un po' perché fu la mia prima opera scritta e disegnata da me, e quindi ho pensato fammici infilare dentro più roba possibile, metti che è l'ultima e poi faccio più niente, almeno ho detto più cose, cioè ho detto un sacco di cose. E poi perché insomma era l'idea è proprio anche questa, dare questa sensazione al lettore e alla lettrice di mutamento, volevo dire, di cambiamento. Quindi insomma è stato questo un po' la ricetta che ha fatto il piatto. Sta arrivando verso me, sta arrivando piano piano, come un vento che si è alzato da sud-ovest a nord-est, da ogni parte arriva. Solamente male mi farai,